Il terzo anello, ad alta voce, I viceré di Federico De Roberto, introduzione di Fernando Acitelli. Federico De Roberto nacque a Napoli nel 1861 da un ufficiale dell'esercito borbonico e da una nobildonna siciliana. In quello stesso anno nascerà anche Italo Svevo. Dopo la morte del padre, la famiglia si trasferisce a Catania e di lì a poco moriranno anche il fratello Luigi e la sorella Maria, e questo segnerà particolarmente la vita e anche l'animo del futuro scrittore De Roberto. Si legherà morbosamente alla madre, proprio per attutire queste mancanze improvvise, e questo amore contrastato si rifletterà nella scrittura di De Roberto. Inizierà giovanissimo a scrivere, e sono del 1887 le sue prime prove narrative, parliamo di novelle dal titolo La Sorte. Nel 1881 pubblicherà la prima parte della trilogia su Uzeda, L'illusione, in cui si ascolta l'eco lontana di Madame Bovary, mentre nel 1894 vede la luce il romanzo I viceré, il secondo momento di questa trilogia. Il terzo momento, lo ricordiamo, sarà L'Imperio, che uscirà postumo nel 1829. I viceré, appunto, romanzo complesso, romanzo definito storico, romanzo definito politico, perché sullo sfondo c'è la storia con la S maiuscola, quella solenne. Ricordiamo che il romanzo prende l'avvio nel 1855, quindi quando l'Italia sta respirando idee nuove, idee che parlano di una via democratico-moderata all'unità, quindi con il progetto di Cavour, appoggiato anche da Napoleone III, e quindi con tutta quell'ala moderata, con Garibaldi, che tenterà, riuscendoci, di aggregare a tutto il resto d'Italia anche il regno borbonico. Il romanzo si apre con una morte, la morte della madre, la principessa Teresa, e è una presenza forte questa della principessa Teresa, perché anche scomparendo subito dalle prime pagine, essa incomberà su tutto il romanzo, perché a seguito del testamento usciranno fuori tutte le caratteristiche, quindi le bassezze, le passioni sfrenate di questa famiglia. E appunto il perno del romanzo è la figura della madre, e parlando della principessa Teresa ci viene a mente anche la figura forte della madre dello scrittore, questa madre che aveva sempre condizionato l'esistenza di De Roberto e lo aveva sempre tratto verso sé, anche quando De Roberto aveva scelto di vivere a Milano, di confrontarsi con le idee degli altri scrittori, Giacosa, Capuana, Verga. I viceré è anche un romanzo, possiamo dire, politico, dove questa sintesi sta a significare l'idea di una supremazia che ognuno vuole ribadire nei confronti dell'altro. Per quanto riguarda il linguaggio, De Roberto, quando deve affrescare la storia, diciamo, ufficiale, usa un linguaggio ricco, in cui la descrizione è puntuale e analitica, e i personaggi sembra di vederli accanto. Lo stesso Garibaldi lo sentiamo vicinissimo, mentre quando passa a narrare le vicende degli Uzeda, ecco che il linguaggio si fa quasi feriale, e è un linguaggio che i nobili non vorrebbero mai usare. Inoltre v'è da parlare dell'amore. L'amore nello scenario di De Roberto ha un posto importante, anche se lui è il primo a prendere le distanze da un sentimento romantico dell'amore, e per lui l'amore è evento improponibile tra un uomo e una donna, perché è quasi basato sul sopruso, ecco, una sorta di egoismo, dove uno dei due senz'altro ha la meglio. È difficile imbatterci in frasi che sollevino un'idea dell'amore, anche come evento propositivo, e anche questo sopruso lo possiamo interpretare anche come un atto di forza dello scrittore De Roberto, come se non volesse concedere ancora una volta all'amore un minimo di speranza. Buon ascolto. Giuseppe, dinanzi al portone, trastullava il suo bambino cullandolo sulle braccia, mostrandogli lo scudo marmoreo infisso al sommo dell'arco, la rastrelliera inchiodata sul muro del vestibolo, dove ai tempi antichi i lanzi del principe appendevano le alabarde, quando s'udì e crebbe rapidamente il rumore d'una carrozza arrivante a tutta carriera. E prima ancora che egli avesse il tempo di voltarsi, un legnetto sul quale pareva fosse nevicato dalla tanta polvere e il cui cavallo era tutto spumante di sudore, entrò nella corte con assordante fracasso. Dall'arco del secondo cortile affacciaronsi servi e famigli. Baldassarre, il maestro di casa, schiuse la vetrata della loggia del secondo piano, intanto che Salvatore Cerra precipitavasi dalla carrozzella con una lettera in mano. «Don Salvatore? Che c'è? Che novità!» Ma quegli fece col braccio un gesto disperato e salì le scale a quattro. Giuseppe, col bambino ancora in collo, era rimasto intontito, non comprendendo. Ma sua moglie, la moglie di Baldassarre, la lavandaia, una quantità d'altri servi già circondavano la carrozzella e si segnavano, udendo il cocchiere narrare ininterrottamente. «La principessa, morta d'un colpo! Stamattina, mentre lavavo la carrozza!» Il portone restava spalancato. Tuttavia alcuni passanti, scorto lo straordinario movimento nel cortile, si informavano col portinaio dell'accaduto. L'ebanista, il fornaio, il bettoliere, l'orologiaio che tenevano in affitto le botteghe di Levante, venivano anch'essi a dare una capatina, a sentire la notizia della gran disgrazia, a commentare la repentina partenza del principe. E poi dicevano che il padrone non voleva bene alla madre. Pareva Cristo sceso dalla croce, povero figlio. E come spinto da Giuseppe, il portone girò finalmente sui cardini. I passanti cominciarono ad accrocchiarsi. «Chi è morta? La principessa! Al bel vedere!» Giuseppe si stringeva nelle spalle, avendo perso del tutto la testa. Ma domande e risposte si incrociavano confusamente tra la folla. Era in campagna, ammalata da quasi un anno, sola, senza nessuno dei figli. I meglio informati spiegavano. Non voleva nessuno vicino, fuorché l'amministratore. Non li poteva soffrire. Un vecchio disse scrollando il capo. Razza di matti questi Francalanza. Tutta la nobiltà sarebbe stata in lutto. Tutti i portoni dei palazzi signorili a quell'ora si chiudevano o si socchiudevano secondo il grado della parentela. E l'ebanista la spiegava. 7 figliuoli. Possiamo contarli. Il principe Giacomo e la signorina Lucrezia che è in casa con lui. 2. Il priore di San Nicola e la monaca di San Placido. 4. Donna Chiara maritata col marchese di Villardita. E 5. Il cavaliere Ferdinando che sta alla Pietra dell'Ovo. 6. E finalmente il contino Raimondo, che ha la figlia del barone Palmi. Poi vengono i cognati, i 4 cognati. Il duca d'Oragua, fratello del principe morto. Padre Don Blasco, anch'egli monaco benedettino. Il cavaliere Don Eugenio e Donna Ferdinanda, la zitellona. In mezzo a un cerchio di gente attenta come alla storia dei reali di Francia, continuava a enumerare il resto della parentela. Il duca Don Mario Radalì, il pazzo, che aveva 2 figli maschi, Michele e Giovanni, da donna Caterina Bonello, e apparteneva al ramo collaterale dei Radalì Uzeda. La signora donna Graziella, figlia di una defunta sorella della principessa e moglie del cavaliere Carbano. Cugina carnale, perciò, di tutti i figliuoli della morta. Il barone Grazzeri, zio della principessa nuora, con tutta la parentela. E poi i parenti più lontani, gli affini, quasi tutta la nobiltà paesana, i Costante, i Raimonti, i Curcuma, i Cugnò. A un tratto si interruppe per dire: «Toh, guardate, i lavapiatti arrivano prima di tutti!» La zitellona asciutta asciutta scrollava il capo. Chiara abbracciava Lucrezia piangendo. Il marchese salutava mestamente i lavapiatti, ma la più commossa era donna Graziella. «Non mi par vero, non volevo crederci, che si muore così. E il povero Giacomo dice che è corso subito lassù. Povero cugino, Se almeno avesse potuto arrivare a chiuderle gli occhi. Che dolore, non avere il tempo di rivederla. Udendo Chiara singhiozzare in seno alla sorella Lucrezia, esclamò: «Hai ragione, sfogati, poveretta. Mamma ce n'è una sola». Tutti i parenti ormai erano avvertiti. Soltanto il famiglio mandato ai Benedettini veniva a dire che padre Lodovico stava per arrivare, ma che padre Don Blasco non era al convento. «Vada alla sigaraia, a quest'ora sarà da lei. Corri e digli che è morta sua cognata». Don Lodovico arrivò con la carrozza di San Nicola e nella sala gialla tutti s'alzarono all'apparire del priore. Chiara e Lucrezia gli andarono incontro, gli presero ciascuna una mano e la marchesa, cadendo in ginocchio, proruppe: «Lodovico, Lodovico, la nostra povera mamma!» Tacevano tutti guardando quel gruppo. La cugina con gli occhi rossi mormorava: «È una cosa che strazia l'anima!» In mezzo alla confusione, mentre la marchesa andava via col marito, spuntò finalmente Don Blasco, col faccione sudato che luceva e un tricorno sul capo. Entrò senza salutar nessuno, esclamando: «L'avevo detto, eh? Doveva finir così!» Non gli risposero. Il priore, anzi, chinò gli occhi a terra quasi cercando qualcosa. Donna Ferdinanda, per suo conto, pareva non essersi neppure accorta dell'arrivo del fratello. Il monaco si mise a passeggiare da un capo all'altro della sala, asciugandosi il sudore del collo e continuando a parlar solo. «Che testa! Che testa! Fino all'ultimo! Andare a crepare in mano a quell'imbroglione! Io l'avevo profetato, eh! E dov'è? Non è venuto? È lui il padrone, qui dentro!» Poiché nessuno fiatava, la cugina credé d'osservare: «Zio, in questo momento!» «E che vuol dire in questo momento?» rispose il monaco piccato. «È morta, Dio l'abbia in gloria! Ma che sa da dire? Che ha fatto una gran cosa! E Giacomo? È andato? È andato solo? Perché non va nessun altro? Ha proibito agli altri di andare?» Nel crocchio dei parenti ciascuno adesso diceva la sua. A misura che la giornata si inoltrava, lettere e biglietti di condoglianze piovevano da tutte le parti. L'intendente mandava esprimere il suo dolore per il lutto di una famiglia devota al re e alla buona causa. Monsignor Vescovo associavasi al dolore dei suoi cari figli. Dall'orfanotrofio Zeda, dall'ospizio dei vecchi e dagli altri istituti di beneficenza che i Francalanza avevano fondato o sussidiato, venivano i rettori, i cappellani, una quantità di tonache nere, oppure i poveri ospitati. Ma questi non erano lasciati salire ed esprimevano il loro rammarico al portinaio o al sottococchiere. E tutti domandavano: «A chi lascerà?» Ma come saperne nulla, quando la principessa non si confidava neppure coi figli. Se ci fosse stato il contino Raimondo, però... Allora i partigiani del principe, senza tanti riguardi: «La roba dovrebbe andare al padrone, se quella pazza non ne avrà fatta un'altra delle sue!» Infatti non aveva potuto soffrire il primogenito, prediligendo il contino Raimondo. E il contino, quantunque chiamato e richiamato dalla madre che sentiva vicina la propria fine, non s'era mosso da Firenze. Giuseppe, guardato dallo sportello, spalancò il portone. Il carrozzino della mattina entrò a rotta di collo e ne scesero il principe e il signor Marco, che teneva una valigia in mano, mentre tutti si scoprivano e dalla loggia del piano nobile affacciavasi Don Blasco. «E il testamento?» Il principe, con un altro tono di voce, non più dolente ma premuroso, pieno di scrupoli. «Il signor Marco qui presente», rispose, «m'ha comunicato che le ultime volontà di nostra madre sono depositate presso il notaio Rubino. Noi aspetteremo, se credete, l'arrivo di Raimondo e dello zio Duca. Il signor Marco possiede però un documento che riguarda i funerali. Credo che di questo si debba dar subito lettura». E il signor Marco, tratto di tasca un foglio, lesse in mezzo a un profondo silenzio. «In questo giorno, 19 maggio 1855, trovandomi sana di mente e non di corpo, io sottoscritta, Teresa Uzeda, principessa di Francalanza, raccomando l'anima a Dio e dispongo quanto appresso. Il giorno che piacerà al Signore chiamarmi con sé, ordino che il mio corpo sia affidato ai reverendi padri Cappuccini, affinché sia da essi imbalsamato e nella necropoli del loro cenobio custodito. Voglio che il funerale sia celebrato con quel decoro che compete alla famiglia, nella chiesa dei detti padri, in segno della mia devozione alla beata Ximena, nostra gloriosa parente, la cui salma nella loro chiesa si venera. Questa è la mia, Teresa Uzeda». Don Blasco, che soffiava come un mantice, non aspettò neppure che l'adunanza si sciogliesse. Afferrato il marchese per un bottone del soprabito, esclamò: «Sempre pulcinellate, fino all'ultimo, per far ridere la gente!» Ma nuovi postulanti sopravvenivano. Nessuno l'aveva ancora detto, ma si sapeva che la principessa di Francalanza non poteva andare all'altro mondo senza una gran cerimonia, senza un gran scialacquio di quattrini, e ognuno sperava di guadagnarne. A buon'ora, dinanzi alla folla curiosa che gremiva la terrazza e le scalinate, avevano inchiodato sulla porta maggiore il drappellone di velluto nero con frange d'argento, sul quale leggevasi a caratteri d'oro: «Per l'anima di donna Teresa Uzeda e Risa, principessa di Francalanza, esequie». Ma bisognava lavorare di gomiti, camminare sui piedi dei vicini, lasciarsi ammaccare le costole e pestare i calli e sudare una camicia prima d'arrivare a quell'apparato intorno al quale una folla d'operai, di servi, di donnicciuole stava estatica ad ammirare in attesa del corteo il finto marmo della piattaforma, le urne di cartone scaglionate sui gradini, le lacrime di carta argentata gocciolanti dai veli neri. «Una galanteria! Una cosa mai vista! Per questo sono signoroni! Lasciate fare a loro. E 12 piangenti, neanche per il funerale del Papa!» La chiesa era talmente gremita che potevano appena fare due passi ogni quarto d'ora, e tutto intorno la gente che non riusciva ad andare né avanti né indietro, né a vedere altro fuorché la cima della piramide, ingannava l'impazienza dell'attesa chiacchierando, dicendo vita, morte e miracoli della principessa. «Adesso i suoi figli potranno respirare. Li ha tenuti in un pugno di ferro». «I suoi figli? Quali?» Costrinse Don Lodovico, il secondogenito, a farsi monaco mentre gli toccava il titolo di duca. La primogenita fu chiusa alla badia. Se campava ancora, ci avrebbe messo anche l'altra. Maritò Chiara perché questa non voleva maritarsi. E tutto per amor d'un solo, del contino Raimondo. «Ma il padre?» «Il padre, ai suoi tempi, non contava più del due di briscola. La principessa teneva in un pugno lui e il suocero. Però tutti riconoscevano che se non fosse stata lei, a quell'ora non avrebbero avuto più niente. Ignorante, sì, ma accorta, calcolatrice. È vero che non sapeva leggere né scrivere. Sapeva leggere soltanto nel libro delle devozioni e in quello dei conti». Frattanto Don Cono avvicinavasi a passo di formica alla seconda iscrizione: «Orbata del tuo fido consorte, nel mortale viaggio, vece facesti ai tuoi figli, del padre loro».